La questione sicurezza, il futuro di Alitalia, il capitolo tasse, poi il decoro urbano, le infrastrutture, il ruolo storico ed internazionale della capitale, il tutto con polemiche reciproche sugli alleati, la sinistra radicale da una parte e la Lega dall'altra. Un confronto serrato, quello tra Rutelli ed Alemanno. Quest'ultimo apre il dibattito sostenendo che il centrosinistra ha sottovalutato il problema sicurezza, accorgendosene troppo tardi e solo quando i casi di cronaca lo hanno costretta ad agire. Se non ci si sente padroni a casa propria, se non si può circolare senza paura nelle strade, tutte le altre libertà civili e anche lo sviluppo economico sono destinati a non avere nessun risultato positivo. Quindi da questo punto di vista è necessaria a Roma una svolta, perché chi è stato avvertito agli anni passati rispetto al rischio ha ignorato questo rischio e ha preferito la propaganda. Le responsabilità sono tutte da attribuire al governo Berlusconi, replica Rutelli, visto come ha agito sulle politiche dell'immigrazione con conseguente sanatoria. Ricordo l'ex ministro Alemanno, che faceva parte del governo Berlusconi, che è stato il suo governo che ha varato una sanatoria per 141.620 cittadini rumeni in Italia, che è stato il suo governo che ha varato la direttiva del 2004 dell'Unione Europea, rispetto alla quale proprio oggi i suoi compagni di partito mettono sotto accusa Frattini e dicono le regole europee sono sbagliate, ma le hanno votate loro, che non permette l'allontanamento per i comunitari con il divieto di rientro. Ma cosa fare per riportare la fiducia nei cittadini? Allontanerò 20.000 clandestini che hanno violato la legge, dice Alemanno, da qui la polemica con Rutelli. No, allontanamento o espulsione? Ah, dal punto di vista tecnico si chiama allontanamento. Ah, ecco, ecco, dal punto di vista perché tecnico, hai detto espulsione per settimane e infatti poi mi sono autocorretto. Ah, ti sei autocorretto. Rutelli propone tra l'altro ausili elettronici che permettano di dare l'allarme rapidamente. Alemanno conferma il suono alle ronde e alla giustizia fai da te. Il capitolo all'Italia, l'attuale vicepremier accusa il centrodestra, la state portando al fallimento. Che cosa avete in tasca, Alemanno, prima del disastro di Alitalia, di Fiumicino e di quella che per me è la Fiat di Roma? Ci sono tutte le possibilità per una cordata italiana, replica l'esponente del PDL. Appena ci sarà Berlusconi, si attiverà questa cordata nazionale e si realizzerà, perché si può realizzare. Noi non vogliamo e non possiamo vendere la compagnia di bandiera, soprattutto alle Franze. Gli appelli finali, Alemanno e poi Rutelli. Questa è una città che se si leva da addosso questo peso di questo gruppo di potere che governa da 15 anni interrottamente, è una città che mette le ali, che decolla, che diventa una città veramente nazionale, perché ha tutte le qualità. Io credo che per Roma ci sia bisogno di orgoglio, ci sia bisogno di una strategia e ci sia bisogno di una grande capacità di ascolto. Bisogna essere più rigorosi su una serie di temi e credo che il dovere del sindaco sia di essere il sindaco dell'ascolto di ogni giorno. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.